Aspetti un minuto. Buona! Leggera, leggera, leggera! Mozzarella! Veramente leggera! La posso dire? Non ci abitava tu. Abbiamo perquisito di nuovo. Lo stesso risultato di me. La Roma non è qui. No, io non so perché, ma c'è una brutta bestia dentro di me che mi butta giù. Ogni giorno vado sempre più giù. Io lo so cos'è, è quel pezzo di cervello che ancora lì, lì con me, nella testa e non si muove più. No, io non lo voglio, voglio darlo via. Voglio anche di una TV. La metto in fondo al letto di casa mia, così poi non ci penso più. No, io non so perché, ma c'è un'altra brutta bestia dentro di me che mi strozza se mi vieni ancora in mente te. Io lo so cos'è, è quel pezzo del mio cuore che è ancora lì, lì con me, e ogni tanto batte senza un perché. No, io non lo voglio, voglio darlo via. Voglio il cambio, un'altra TV. La metto in fianco a me nel letto di casa mia. Mi dico, bevi, mi vuoi bene anche tu. Così io sento che c'è rimasto poco dentro di me. Una palla e via. L'altra persa, una scommessa e non so più dov'è. Ma adesso non parlare, non parlare, devi stare solo zitto, devi stare ad ascoltare. E quindi non pensare, non pensare, tu sei pazzo, tu pretendi di pensare. Oh!